GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Il tavolo ministeriale su Wärtsilä, l'azienda conferma l'impegno a mantenere in Italia l'attività non produttiva, si punta allo sviluppo di motori a gas naturale liquido, metanolo e ammoniaca. Una ventina le società interessate a rilevare il sito di Bagnoli della Rosandra. Il giudizio dei sindacalisti dopo l'incontro di ieri. Massima attenzione sulle manifestazioni promosse da gruppi anarchici dopo il corteo di sabato scorso a Trieste. Il Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico si è occupato anche della banda dei Rolex e dei presidi di polizia negli ospedali. E allarme a Trieste per il consumo di droga. Il 20% delle morti improvvise non spiegabili degli ultra cinquantenni è dovuto all'assunzione di stupefacenti. Trieste ospiterà nel 2024 il Big Science Forum Business, presentato a Roma l'evento dedicato al mondo della scienza e della tecnologia, che porterà nel capoluogo regionale un migliaio di persone. I lavori di ristrutturazione del carcere di Via Spalato a Udine, prevista fra l'altro la riqualificazione della sezione riservata ai semiliberi. Vera Gheno, studiosa specializzata nel linguaggio digitale, sarà ospite questa sera dell'associazione Tesis di Pordenone. Spettacoli debutta al Bobbio di Trieste, stanno sperando sulla nostra canzone con Irene Pivetti. Con Veronica Pivetti, chiedo scusa, il Comune di Trieste assegna la civica benemerenza alla Società dei Concerti in occasione dei 90 anni di attività. Calcio, pareggio per Pordenone e Triestine, neroverdi allungano sulla seconda nonostante l'occasione sprecata contro il Renate. Gli alabardati ottengono un punto a Verona dopo il cambio di allenatore. Le 7:19 minuti e 40 secondi di giovedì 2 febbraio, buona giornata da Maria Spezia e da Paolo Roncoletta. Anzitutto uno sguardo alle condizioni del tempo. Il cielo è variabile sulla zona montana, nuvoloso con foschie e qualche nebbia e nubi basse su pianura e costa. Le temperature rilevate alle 6, abbiamo a Trieste 5 gradi, a Gorizia 1,5 gradi, a Udine 5 decimi di grado positivi, temperature sotto zero altrove, abbiamo meno 2 gradi a Pordenone, meno 1 grado a Tolmezzo, meno 3 gradi sul Monte Lussario e sul Monte Zoncolan, 0 gradi a Sappada, a Forni di Sopra la temperatura invece positiva, 2 gradi e mezzo sopra lo zero. E torniamo sulla costa, abbiamo 4 gradi e mezzo a Lignano e Grado. Le previsioni dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per oggi, nuvolosità variabile, sulle Alpi saranno probabili maggiori annuvolamenti e qualche debole nevicato del nevischio al confine con l'Austria, specie nel pomeriggio sera. Su pianure costa foschie, banchi di nebbia e nubi basse alternate a temporanee schiarite, gelate notturne nei fondovalle in pianura con brina, venti moderati o sostenuti da nord-ovest in quota. Il futuro di Wärtsilä, la transizione ecologica con il passaggio a motori a gas naturale liquido, metanolo o ammoniaca, ma anche le manifestazioni di interesse per il sito di Bagnoli della Rosandra, sono alcuni degli argomenti affrontati nel corso della presentazione del piano industriale della multinazionale finlandese. Wärtsilä conferma il suo impegno a mantenere le attività diverse dalla produzione in Italia, anzi prevede in prospettiva nuove assunzioni in un investimento da 50 milioni per i prossimi 3 anni. La società ha presentato al Ministero per le Imprese Made in Italy il piano industriale per la parte di ricerca e servizi che sin da subito aveva affermato di voler mantenere in Italia. Entro il 2025 sono previsti aumenti d'organico di 50 persone, al netto ovviamente della perdita che causerà la chiusura della produzione di motori, che porterà gli addetti Wärtsilä diretti da 1150 a 810, di cui 700 a Trieste. Il piano industriale illustrato dal presidente Michele Cafagni è conseguenza della transizione ecologica, cioè della necessità di ridurre le emissioni di anidride carbonica. Il mercato e le normative ambientali non contemplano più i grandi motori diesel storicamente realizzati a Bagnoli della Rosandra. Si punterà sullo sviluppo di nuove propulsioni come gas naturale liquido, metanolo e ammoniaca. L'obiettivo dell'azienda inoltre è riconvertire vecchi motori per ridurre le emissioni, cosa che sarà fatta anche in Italia. Gli esuberi certi scendono a 321, gli addetti alla produzione, a cui vanno aggiunti quelli delle attività correlate che l'azienda non è in grado di quantificare. In calo dai 451 annunciati inizialmente, anche a causa delle dimissioni registrate finora, una settantina. Per i futuri licenziati si apre la possibilità di una ricollocazione in una delle aziende che si impegneranno a rilevare lo stabilimento. Le società che hanno manifestato interesse sono 20, ha fatto sapere Wärtsilä al tavolo, 6 hanno presentato una lettera di intenti, 5 delle quali sono multinazionali. Il gruppo ha annunciato che i piani industriali, attesi entro marzo, saranno illustrati, discussi e negoziati con i sindacati. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. E ora i commenti dei sindacalisti al termine della riunione di ieri. Sentiamo Antonio Rodà di Wilme e Alessandro Gavagnin di FIMCISL. L'incontro è stato un primo passo che però non ci permette di dare un giudizio articolato, in quanto il piano industriale presentato da Wärtsilä sul service e sulla ricerca e sviluppo oggi necessita ancora di un dettaglio di approfondimento. Sono molte le domande alle quali, insomma, dobbiamo avere delle risposte. Per quanto riguarda poi la cosiddetta reindustrializzazione, è positiva la presenza dell'advisor incaricato da Wärtsilä al tavolo odierno. È evidente che, insomma, ancora ci sono aspetti da approfondire, in quanto l'azienda non è stata nelle condizioni di darci nel dettaglio dei nomi delle aziende interessate. Prendiamo atto sicuramente dell'impegno di Wärtsilä a rispettare l'accordo del 29 novembre e quindi con la presentazione di un piano triennale per quanto riguarda gli uffici non impattati dalla procedura di esubero. Quello che prendiamo sicuramente in maniera positiva sono gli investimenti, che rispetto all'accordo del 29 novembre sono passati da 5 milioni a 50 milioni e il piano di assunzioni di più o meno una cinquantina di persone all'interno dei 3 anni. Quello che ora ci aspettiamo è che continui con questo atteggiamento e quindi che la prima settimana di marzo, dove abbiamo previsto un altro ulteriore incontro, iniziamo a parlare di tutta la parte invece che riguarda la reindustrializzazione del sito. Si apre questa mattina a Tricesimo il congresso regionale della CGIL, ultima tappa del percorso congressuale. In apertura alle 10 ci sarà la relazione del segretario regionale Vivian Pezzetta. Chiuderà il dibattito Francesca Re David, già segretaria nazionale della FIOM. Il sindacato conta in Friuli Venezia Giulia 15.000 iscritti tra lavoratori e pensionati. Il 15% di loro ha partecipato al percorso congressuale esprimendosi sui 2 documenti programmatici presentati a livello nazionale. Si è riunito ieri pomeriggio a Trieste il Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico. All'ordine del giorno 3 questioni, cioè la sicurezza dei sanitari, in particolare delle guardie mediche, poi i colpi della cosiddetta banda dei Rolex e il possibile allarme per azioni di lotta da parte degli anarchici. Sentiamo cosa è emerso nell'intervista al prefetto di Trieste, Pietro Signoriello. Abbiamo convenuto innanzitutto, diciamo, un intervento più o meno immediato, credo che entro un mese dovremmo essere in condizioni attraverso la Polizia di Stato di realizzarlo, ossia al Gattinara, presente insomma in una posizione prossima al pronto soccorso, un posto di polizia che in questo momento copre soltanto il turno mattutino, mentre invece riusciremo a sviluppare un secondo turno fino alle 20. Stiamo valutando dei collegamenti punto a punto tra i pronto soccorso, in questo caso del Gattinara, ma anche dell'ospedale maggiore, con le sale operative delle forze di polizia. Ecco, questo consentirebbe, diciamo, di abbattere totalmente, ecco, la tempistica di chiamata d'emergenza. Sono state prese misure di sicurezza particolari a seguito della rapina a mano armata di Rupin Piccolo a opera della banda del Rolex? C'è un pattugliamento del territorio finalizzato proprio a un'attenzione specifica su questo genere di cose maggiore. Sarebbe necessario che tutta la provincia in qualche modo possa realizzare un upgrade anche per quello che riguarda i sistemi di videosorveglianza, ma in modo particolare quelli di lettura targhe, perché la tipologia di viabilità di entrata e uscita da questa realtà territoriale trarrebbe grande beneficio dalla possibilità di avere alert nelle fasi di passaggio. C'è allerta a Trieste per le attività degli anarchici in relazione al caso Cospito? La manifestazione che si è svolta sabato in centro città ha evidenziato che l'attenzione ci deve essere e deve essere massima. Ci rendiamo anche conto che tutto questo si inserisce in un contesto di incremento della situazione di tensione a livello nazionale e anche internazionale, ed evidentemente noi siamo pronti a fare la nostra parte. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Il 20% delle morti improvvise di persone con meno di 50 anni avvenute apparentemente senza una spiegazione è dovuto all'assunzione di stupefacenti, lo sostiene una ricerca dell'Università di Trieste. Si ordina online, comodamente dal divano di casa, arriva con il corriere, come un qualsiasi acquisto, ma dentro c'è droga di ogni tipologia. Il consumo di sostanze stupefacenti oggi è più difficile da intercettare perché casalingo, ha detto Alessandro Cavalli, della Direzione Centrale Antidroga della Guardia di Finanza, tra i relatori del convegno sull'abuso di sostanze organizzato dall'Università di Trieste. Quello che acquistano online non sanno esattamente che struttura molecolare c'ha. Nella fatidica canna famosa, anticamente troviamo soltanto la marijuana, adesso possiamo trovare il cannabinoide sintetico. In medicina d'urgenza non sanno più in questo momento che cosa uno ha assunto, quindi arriva in overdose ma non sappiamo di che cosa. Il 20% delle morti improvvise, apparentemente inspiegabili, di persone under 50 dipende proprio dall'assunzione di stupefacenti, è quanto emerge dal nuovo studio biennale dell'Università di Trieste, analizzate 70 autopsie per morti cardiache. Stefano Delrico, responsabile. Quello che capita è di eseguire un accertamento autoptico su soggetti deceduti improvvisamente in età giovanile per causa sconosciuta e di trovare dei reperti che suggeriscono che invece quel soggetto era o un consumatore cronico di sostanze d'abuso, ma soprattutto che il decesso è da riferire all'esito delle nostre indagini tossicologiche al consumo di sostanze stupefacenti. Per intercettare in modo tempestivo l'abuso di sostanze, il nuovo laboratorio mobile che sta girando lungo le autostrade e la grande viabilità a bordo polizie e sanitari. Riccardo Adobati, laboratorio di tossicologia legale del Burlo. Un laboratorio mobile di questo tipo è utilissimo perché permette di avere una risposta a una positività confermata in pochissimo tempo, nel giro di 20-30 minuti si ha già la conferma dell'assunzione di una sostanza da parte del guidatore. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. È stato presentato ieri a Roma il Big Science Business Forum che si svolgerà nell'autunno del 2024 a Trieste. Presenti i ministri dello sviluppo economico Adolfo Urso, dell'Università e Ricerca Anna Maria Bernini, dell'Ambiente Gilberto Pichetto Frattini e il presidente della Regione Massimiliano Fedriga, secondo cui all'evento sono attesi almeno un migliaio di operatori di un settore che in Europa vale 10 miliardi di euro. Fedriga ha ricordato l'importanza della regione per lo sviluppo economico e sociale alla luce dei passi avanti compiuti sul finanziamento da 25 milioni per il progetto internazionale della Hydrogen Valley. Assegnata alla città di Trieste nell'ottobre scorso con il passaggio ufficiale del testimone svoltosi a Granada, l'edizione 2024 verrà ospitata in autunno nel polo congressuale di Porto Vecchio e ruoterà attorno ai cardini delle donne nella scienza e delle carriere. In rappresentanza delle istituzioni scientifiche di Trieste c'era la presidente di Area Science Park, Caterina Petrillo, che ha ricordato come per ogni euro investito in appalti per l'acquisto di servizi e tecnologie ne rientrino 3. Riprenderanno alle 10 i lavori del Consiglio regionale impegnato sul disegno di legge FV Green. Ieri sono stati approvati 6 articoli. L'assessore Scocimarro ha accolto le richieste del Movimento 5 Stelle che puntava ad un aggiornamento del testo sulla base delle indicazioni dell'Unione Europea. Su richiesta di ONSEL, Open Sinistra FVG e Conficoni Democratici è stata fissata la data del 31 dicembre per fare il punto sulla strategia regionale di sviluppo sostenibile. In apertura di seduta ci sarà la celebrazione per il giorno della memoria. Come cambierà il carcere di Via Spalato Udine con i lavori di riqualificazione che stanno per iniziare? La nostra truppa è entrata all'interno della casa circondariale. Le prime ad essere ristrutturate saranno le celle abbandonate da 20 anni dell'ex sezione femminile. In questi locali, dall'anno prossimo, i detenuti del carcere di Udine potranno dedicarsi alla ceramica, alla poesia, alla musica. Il primo dei 2 lotti di lavori, voluti dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, affinché la pena, come vuole la Costituzione, sia sempre più finalizzata al reinserimento sociale. Franco Corleone, garante dei diritti dei detenuti di Udine. Via Spalato cambierà volto, ci sarà un polo autonomo per attività culturali, formative, di lavoro, con spazi che oggi non ci sono. Di quali contenuti riempire i nuovi spazi lo si deciderà assieme all'Università di Udine e alle associazioni già attive in carcere. Prima della realizzazione di un teatro da 100 posti, entro il 2024, verrà restituita a nuova vita anche la sezione in cui tornano a dormire la sera i semiliberi, pannelli fotovoltaici sui tetti, cucina e area per la socialità. Tiziana Paolini, direttrice del carcere di Udine. Adesso la sezione semiliberi è all'interno della sezione detentiva, invece la nuova struttura si trova sempre nell'istituto, però con un accesso all'esterno, adiacente alla prima portineria. Dei 100 detenuti presenti in via Spalato, rispetto ai 56 posti disponibili al momento, 40 sono persone in attesa di giudizio. Il sovraffollamento sarebbe evitabile, secondo Corleone, con un maggior ricorso ai domiciliari, ma non solo. Ci sono persone che hanno pene brevi, che finiscono quest'anno o l'anno prossimo, che dovrebbero avere misure alternative. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Giornata d'esordio per il terzo corso di aggiornamento per tutori volontari di minori stranieri non accompagnati organizzato dal garante regionale dei diritti della persona del Friuli Venezia Giulia, Paolo Pittaro. Focus dell'iniziativa: gli aspetti psicoantropologici che coinvolgono i minori. L'iniziativa è riservata ai tutori volontari della regione iscritti nell'elenco del Tribunale dei minori di Trieste, oltre che ai referenti delle comunità di accoglienza che hanno aderito a Udine nel Palazzo della Regione di Via Sabbadini dalle 14. Nel pomeriggio verrà scoperto a Trieste un murale dedicato a David Sassoli, già presidente del Parlamento europeo, scomparso poco più di un anno fa. Il murale è stato allestito nella sede del PD in via della Geppa. La cerimonia inizierà alle 17.30. Interverrà la capogruppo della Camera, Deborah Serracchiani. Si intitola Mutamenti 2022, Friuli Venezia Giulia e Veneto, la sindrome del piano inclinato, la seconda edizione del progetto di ricerca dedicato alle evoluzioni delle due regioni comparate con l'Italia. La ricerca, che spazia dall'economia alla demografia fino all'occupazione e alla crescita, presenta l'instabilità come la nuova normalità dello sviluppo sociale e sarà presentata in un incontro concluso da una tavola rotonda a cui parteciperanno Alessia Rosolen, assessora regionale del lavoro, e Daniele Castagneviz, presidente regionale di Conf Cooperativa. Ecco, Droipo alla cantina di Raucedo alle 10. Vera Gheno, una delle voci più note della linguistica italiana, al punto da essere stata citata in una delle tracce sull'attualità della maturità del 2022, interverrà come ospite dell'Associazione Culturale Tesis a Pordenone in biblioteca alle 18. Nota per la collaborazione ultradecennale con l'Accademia della Crusca, da diverso tempo Gheno si occupa dei temi della diversità e dell'inclusione, sostenendo che in una realtà in continua trasformazione la lingua possa svolgere un compito importante. L'abbiamo intervistata per chiederle una sintesi del suo intervento. Quello che io cerco di spiegare è che non occorre fissarsi a parlare sempre bene, sempre secondo le regole, quanto piuttosto misurare con attenzione che tipo di parole possono servire per un determinato contesto. Ed è qualcosa, è una consapevolezza che dà sempre una grandissima soddisfazione. Quindi invito tutte le persone a fare questa riflessione. Quali sono i problemi particolari che le persone incontrano nell'esprimersi in modo, diciamo, adeguato? Mentre a scuola c'è molta enfasi sulla lingua corretta, sulla norma, sul seguire la norma, il congiuntivo, no? E così via, in realtà una competenza che spesso manca è proprio quella di capire quali parole servono in una determinata situazione. E questo porta a una sorta di appiattimento della comunicazione su delle formule standard che ci danno un certo grado di sicurezza, però tolgono anche la soddisfazione della parola, quella che Calvino chiamava la scintilla che spritta dallo scontro delle parole con nuove circostanze. Lei si è molto dedicata ai temi della diversità e dell'inclusione. Ecco, anche qui quali sono i problemi principali che vengono incontrati, io credo in particolar modo dai giovanissimi? Non credo che siano i giovanissimi ad avere più problemi, perché le giovani generazioni sono tendenzialmente più fluide, più aduse al cambiamento, non lo vivono come qualcosa di traumatico. Siamo piuttosto noi grandi il vero problema. Il problema degli adulti in generale, delle persone che vivono in questa parte del pianeta, è quella di pensare che il proprio punto di vista sia riassuntivo di tutti i punti di vista. Quindi quello che bisognerebbe fare è una sorta di decolonizzazione globale del pensiero, cercando di vedere il mondo anche da altre prospettive, non solo la propria, bianca, europea, eterosessuale, eccetera, eccetera. Il neuroscienziato Marcello Turconi inaugurerà la 22esima edizione del progetto Musica, Arte, Teatro più Scienza, con un incontro sul funzionamento del cervello in programma alla Biblioteca di Monfalcone. L'iniziativa, che quest'anno coinvolgerà 134 alunne e alunni della scuola primaria Duca d'Aosta di Monfalcone, nelle prossime settimane proseguirà con il percorso teatrale condotto da Luisa Vermiglio, con il danzatore Andrea Rizzo, e il percorso artistico curato dalla scenografa Elisabetta Ferrandino. Il progetto proporrà anche momenti di formazione sul tema dedicati a insegnanti e genitori delle classi partecipanti e si concluderà il 31 maggio. È intitolata Idee che hanno viaggiato per mare, la 24esima edizione dell'incontro internazionale di archeologia organizzata dall'Università di Udine e dedicata alle ricerche nel mondo sommerso del Mare Nostrum, in cui si parlerà di temi archeologici di tipo marinaresco e riguardanti la navigazione, i porti, gli approdi, oltre che i paesaggi costieri. L'iniziativa, della durata di 3 giorni, è in programma a Udine a Palazzo di Toppo Wasserman dalle 9.30. Coordinatore scientifico del simposio è Massimo Capulli dell'Ateneo Friulano, a cui abbiamo chiesto una presentazione dell'iniziativa. È un momento un po' particolare perché siamo studenti tempo stesso docenti. Siamo docenti perché raccontiamo i risultati delle nostre ricerche, ma siamo anche studenti perché ascoltiamo cosa hanno fatto i colleghi, cerchiamo di trarre ispirazione, ci confrontiamo, vediamo quali sono stati i successi, quali sono stati gli errori. È un convegno molto ampio perché innanzitutto il Mediterraneo è grande, vi si affacciano 3 continenti, ricordiamolo, in quindi abbiamo studiosi che arrivano dall'Europa, come l'Italia, la Croazia, la Slovenia, la Grecia, ma abbiamo anche colleghi da Israele, Libano, Turchia, dall'Egitto, dall'Algeria. Noi, come Università di Studi Udine, presenteremo quelle che sono state le ultime ricerche condotte come Dipartimento di Studi Umanistici e dal Patrimonio Culturale. Presentiamo le ricerche che abbiamo condotto su alcune imbarcazioni di epoca romana di tipo Cucito che si trovano in regione in tutto l'Alto Adriatico, quindi anche le ricerche che abbiamo condotto in Veneto e anche lo scavo di un relitto di epoca storica. Ci saranno importantissime novità, ci sono i colleghi dell'Università di Antalya che porteranno i risultati dello scavo di un relitto dell'età del bronzo, parliamo di un relitto più antico della guerra di Troia per intenderci. Ci sono colleghi americani che presenteranno ricerche che stanno realizzando in Egitto, ci sono le ultime ricerche che sono state condotte in Israele, insomma sì, le novità sono veramente tante. In apertura di simposio è previsto anche l'intervento di Simonetta Bonomi, soprintendente unico per l'archeologia, le belle arti e il paesaggio del Friuli Venezia Giulia, a cui abbiamo chiesto un commento sull'iniziativa. Anche una piccola parte è dovuta a una ripresa delle indagini archeologiche subacquee che ha promosso la nostra soprintendenza, considerato che poi noi abbiamo la tutela sul patrimonio archeologico sommerso fino a 12 miglia dalla costa, poi subentrano i nostri colleghi della soprintendenza del mare. Ci saranno degli interventi su cui puntate molto? Insomma, naturalmente quello che può riguardare l'Adriatico e la nostra zona sono le cose per noi importanti perché vengono messe a confronto con siti magari più noti, più importanti, anche più ricchi di rinvenimenti che hanno fatto un po' la storia dell'archeologia subacquea, però il fatto di esserci anche noi, ecco, è una cosa importante. Primo appuntamento per il ciclo di conferenze dei giovedì minervali dedicate ai temi di archeologia organizzato dalla Società di Minerva. Dall'avvio dell'economia di produzione alle più antiche attestazioni in metallo nel Friuli Venezia Giulia, modalità di occupazione e di sfruttamento delle risorse dal primo neolitico all'età del rame, il titolo dell'incontro che sarà condotto da Giulio Simeoni, ricercatore dell'Università di Udine, a Trieste, nella biblioteca Stelio Crise, alle 16.45. In occasione del compimento del 90° anno di attività, la Società dei Concerti riceverà la civica benemerenza della città di Trieste dal sindaco Roberto Di Piazza nella sala del Consiglio Comunale alle 11. Nata nel 1932 con oltre 1.400 concerti al suo attivo, la Società dei Concerti di Trieste, oggi presieduta da Piero Lugnani, nel corso della sua attività ha ospitato direttori del calibro di Victor de Sabata e Herbert von Karajan, pianisti come Arthur Rubinstein, Arturo Benedetti Michelangeli, Vladimir Horowitz e molti altri. Tutt'oggi la società è impegnata a diffondere la cultura della musica classica e la promuove attraverso incontri, progetti dedicati ai più giovani e corsi di storia della musica. 7:41 minuti e 35 secondi, passiamo agli spettacoli. Stanno sparando sulla nostra canzone lo spettacolo musicale con protagonista Veronica Pivetti, ambientato nella Manhattan gangster degli anni 20 e accompagnata da brani della musica pop e rock. Numerosi gli spunti che mettono in relazione lo spettacolo all'attualità, dall'ambientazione nel corso dell'epidemia di influenza spagnola al desiderio di riscatto femminile, nello sfondo di una storia di passione, gelosia e rivalsa. A Trieste, al Teatro Bobbio, alle 20.30. È basato su un triangolo amoroso che diventa poligono, il vaudeville intitolato Pigiama per sé, interpretato da Laura Curino, Antonio Cornacchione, Max Piso e Rita Peluso, per la regia di Marco Rampoldi. Lo spettacolo è divertente per il pubblico ma complesso per gli attori, costretti a interpretare un ruolo diverso a seconda di quali siano le persone presenti sulla scena, in un crescendo di equivoci e risate. A Cordenons, all'Auditorium Aldo Moro, alle 21. L'attore Alessio Boni sarà protagonista di Don Chisciotte, spettacolo teatrale liberamente ispirato al romanzo capolavoro di Cervantes, per raccontare di un uomo tormentato dal desiderio di dare un senso alla propria vita attraverso le sue battaglie. Sul palco le scene si avvicendano in un continuo alternanza in una continua alternanza di quadri da cui emergono argomenti come l'amicizia che si sovrappone e appiana le distanze sociali esistenti tra i due protagonisti, con Sancho Panza interpretato da Serra Yilmaz, ad Azzano Decimo, al Teatro Mascherini alle 21. Terzo appuntamento per il ciclo di incontri con i protagonisti delle opere in programma al Teatro Verdi di Trieste, che oggi proporrà un dialogo con gli artisti impegnati nella produzione del Macbeth in scena fino a domenica, nella produzione firmata da Henning Brockhaus. Tra gli altri è attesa la partecipazione dei baritoni Giovanni Meoni e Leon Kim, dei soprani Silvia Della Benetta e Gabrielle Moulin, dei tenori Antonio Poli e Riccardo Rados, dei bassi Dario Russo e Cristian Saitta. Al ridotto del Teatro Verdi alle 17, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Il romanzo Dove sei, mondo bello, dell'autrice irlandese Sally Rooney, sarà il tema del primo appuntamento del ciclo di incontri su autori e romanzi narratori d'Europa. L'iniziativa, organizzata dall'IRSE, Istituto Regionale di Studi Europei, giunta alla 25esima edizione, proporrà 4 incontri dedicati alle inquietudini del passaggio dall'adolescenza all'età adulta, fra amori, amicizie e ricerca di libertà nel contesto della storia e degli accadimenti del nostro tempo. A Pordenone, alla Casa dello Studente, alle 15.30. Passiamo allo sport, iniziando dal calcio. Nel turno infrasettimanale della Serie C, il Pordenone non è andato oltre il pareggio interno con il Renate. I neroverdi hanno recuperato il vantaggio iniziale degli ospiti, ma hanno mancato diverse occasioni per conquistare 3 punti, tra le quali una in pieno recupero. La triestina del neo allenatore Gentilini ha conquistato un punto nella trasferta di Verona contro la Virtus ed è finita a 0-0. In classifica neroverdi al comando, triestina sempre ultima. Ancora un pareggio per il Pordenone, che replica l'1-1 di domenica scorsa con il Padova, anche in casa con il Renate. Dopo 4 minuti ospiti già in vantaggio con Nepi, che devia in rete la palla finita sul palo su un tiro di Sorrentino. La reazione provoca un gran tiro da fuori di Zammarini, di poco fuori. Il Pordenone aumenta progressivamente il ritmo e dopo una grande occasione capitata a Murrai, che con un tiro da fuori aria centra in pieno il palo, pareggia sugli sviluppi di una rimessa laterale con Palombi ben smarcato da Pinato. Nella ripresa Ramarri vicini al gol del successo solo nel finale, prima con Piscopo che colpisce un altro legno e poi in pieno recupero con Dubicas cui si oppone Angeli con un grande intervento. Neroverdi sempre primi in classifica, prossimo impegno domenica sul campo dell'Arzignano. La Triestina con il debutto del nuovo mister Gentilini in panchina strappa un punto a Verona contro la Virtus, il primo dopo 8 sconfitte in trasferta, che lascia gli Albardati all'ultimo posto solitario in classifica, 9 punti dai Veneti e 4 dal Piacenza, penultimo. Nel primo tempo, dopo un'occasione dei padroni di casa con una punizione respinta dal portiere Matosevic, ospiti pericolosi, si fa per dire, prima con Rocchetti con un sinistro da fuori aria, poi con Adorante fermato dall'estremo difensore della Virtus, Sibi. L'attaccante della Triestina viene sostituito a inizio ripresa dal neoacquisto Mbakoku, che si fa notare solo con un tentativo improbabile di scavetto che finisce addosso al portiere. Ci provano più tardi anche Tavernelli per gli ospiti e Danti per i padroni di casa, ma senza schiodare lo scialbo 0-0 finale. Giorgio Bearz, TGR Friuli Venezia Giulia. Pallanuoto, niente da fare per Trieste impegnata nel turno infrasettimanale contro la corazzata Recco. I Liguri hanno vinto 16-5 al gol iniziale di Bego, e seguita la serie delle reti della capolista. Gli altri marcatori per Trieste: Bini, Valentino e Inaba, autore di una doppietta. In classifica gli Labardati scivolano al 6° posto, superati da Palermo e Savona. Sabato affronteranno la Piscina Bianchi la Distretti Ecologici Roma. Ciclismo: Jonathan Milan è passato al comando della corsa a tappe Saudi Race che si disputa in Arabia Saudita. Il corridore di Buia si è piazzato al 2° posto ieri nella tappa che si è conclusa da Puraka e con i 6 secondi di abbuono conquistati si trova ora in testa alla classifica generale con 8 secondi di vantaggio sull'olandese Boll. L'atleta della Bahrain è in testa anche nella classifica a punti e in quella dei giovani. Oggi si corre la 4ª frazione con arrivo a Sky Views of Harad Uwarid. 7.47 minuti, iniziamo la rassegna stampa. Il titolo di apertura di prima pagina del Piccolo di Trieste riguarda Wärtsilä. La trattativa riparte dai motori green, tra i richiami in prima il Big Science Forum e il furto dell'opera su Regeni al liceo Petrarca. C'è la fotonotizia della nave Laura Bassi con un'anticipazione dell'intervista al comandante Franco Sedmak e un breve richiamo riguardante la Triestina di Gentilini che ha colto un punto a Verona. Capocronaca di Trieste dedicato al convegno nel quale si è parlato di droga. 3.000 dosi di cocaina consumate ogni giorno. Trieste sopra la media. I dati del Sistema Sanitario Nazionale su delibera del Comitato Interministeriale Programmazione Economica e Sviluppo Sostenibile che pongono la regione al sesto posto in Italia per attrattività sanitaria, generando in 10 anni un attivo di 150 milioni, sono l'apertura del Messaggero Veneto, che in Fotonotizia invece si occupa dei droni della protezione civile regionale, ora promossi dal Ministero Infrastrutture a aeromobili di Stato. Capocronaca interno, la protesta di alcuni studenti dell'Istituto Marinoni che contro i problemi di riscaldamento a fronte di una temperatura in aula sui 14 gradi hanno disertato le lezioni. Spazio poi all'ipotesi di guasto elettrico per l'incendio avvenuto in università lo scorso martedì. Il Gazzettino di Udine apre calcolando 600 rider in regione a fronte della richiesta sindacale di maggiori tutele per i lavoratori. La fotonotizia è per l'accordo tra Confcommercio e la cooperativa Nemesi per inserire i profughi ucraini nel turismo lignanese. Altro servizio è quello sullo sblocco degli incarichi nell'azienda sanitaria Friuli Centrale dopo quasi 10 anni, che consentirà il riconoscimento delle qualifiche ai professionisti. Sfida legale sui dragaggi, 6 imputati a processo, il titolo principale di prima pagina del Piccolo di Gorizia Monfalcone, riguarda la prima udienza per l'inchiesta degli scavi a Porto Rosega. Il capocronaca di Gorizia invece è sulle attività di laboratorio che verranno promosse tra gli studenti di architettura in vista dell'appuntamento Nova Gorizia, Gorizia capitale della cultura 2025. In prima di cronaca di Monfalcone viene riportata la deposizione del primo testimone al processo per i dragaggi. L'edizione di Pordenone del Messaggero Veneto dedica la fotonotizia all'apertura indagine per la tragedia dell'elicottero di cui vi abbiamo dato conto ieri e per l'economia dà conto dell'avanzamento del piano di riorganizzazione di Electrolux che ora ha chiuso un sito produttivo ungherese ma ha lasciato intatte le strutture italiane a fronte della ripresa della domanda di elettrodomestici. Capocronaca, l'avvio della campagna scolastica antidiscriminazione che coinvolge oltre 5.000 studenti. Spazio poi al progetto di riorganizzazione dell'azienda sanitaria Friuli Occidentale con fondi del PNRR, intesa a fornire servizi in modo capillare e rinnovare il parco tecnologico. Il Gazzettino di Pordenone in fotonotizia pubblica una vignetta per dare conto dell'avvio del progetto Emergenza Giovani, inteso a contrastare l'abbandono scolastico e prevenire il disagio giovanile. Altro servizio, quello sul calcolo di 1,5 milioni di euro in 3 mesi, come sborso da parte dell'azienda sanitaria Friuli Occidentale alla sanità privata per garantire prestazioni altrimenti impossibili da erogare, reso noto questo calcolo con la programmazione trimestrale. C'è spazio per altri appuntamenti odierni. La critica letteraria e storica della letteratura italiana Lina Bolzoni interverrà per l'incontro Una meravigliosa solitudine sul ruolo della letteratura a Pordenone nell'Auditorium Vendramini alle 20.30. La rassegna letteraria La Tisana per il Nord-Est inaugurerà la sua 5ª edizione con Daria Collovini e la ballerina di Degas alla Tisana al Centro Polifunzionale alle 18. È dedicato a fornire informazioni sul servizio civile, alle modalità di candidatura e alla scelta del progetto più adatto. L'incontro in programma a Trieste al bar Libreria Knulp di Via della Madonna Zona del Mare alle 18. Manifesti artistici dal profumo di caffè e l'incontro diretto da Roberto Curci che inaugurerà il ciclo dei cenacoli del caffè dell'associazione Museo del Caffè di Trieste. Appuntamento all'Hotel Savoy Excelsior alle 17.30. Libri, l'autore docente Angelo Floramo presenterà il suo nuovo libro Vino e Libertà a Udine nella comunità 9 in Parco Santo Svaldo alle 20.30. Il volume L'esercito italiano nella prima guerra mondiale, l'uniforme grigio-verde, sarà presentato dall'autore Francesco Frizzera a Gorizia ai musei provinciali in Borgo Castello alle 18. Il libro fotografico Luci ed ombre dell'Asia di Paolo Magnani sarà presentato a Trieste al Circolo della Stampa in Corso Italia alle 17. Il libro Il denaro e Cipria di Giulio Giustiniani sarà presentato a Udine al Salone del Parlamento del Castello alle 18. Il volume fotografico Segnali di Roberto Camufo e Leonardo Tognon, ispirato alle suggestioni di Pierpaolo Pasolini, sarà presentato a Grado nella sala del Consiglio Comunale in piazza Biagio Marini alle 17. Passiamo alle esposizioni artistiche. La mostra degli artisti mugesani sarà inaugurata a Trieste al primo piano dell'Eppinger Café di Via Dante alle 18. La rassegna di miniature grafiche Carso in rilievo di Taddea Druskovic sarà inaugurata a Trieste presso Bibitando e Magnando di Via dell'Istria alle 18. Per la musica è stato posticipato a data da destinarsi l'evento Aperitivi in musica tutto Chopin già programmato per oggi a Trieste all'Hotel Hilton alle 17 in replica alle 18. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. A seguire la rubrica in friulano Vue o Favelin D, che parlerà delle richieste di lavoro che sono aumentate in conseguenza del bonus 110, nonostante i problemi che non mancano e che non sono legati soltanto alle difficoltà di cessione dei crediti. Alle 11.20 l'appuntamento con anziani, anzi no, nella puntata di oggi si parlerà del sonno, una parte importantissima della nostra vita, basilare per la salute fisica e mentale. Alle 11.55 andrà in onda Né Stato né Mercato, l'appuntamento settimanale dedicato al terzo settore. I programmi regionali tornano alle 13.30. Alle 7.53 minuti e 10 secondi termina la prima edizione odierna del giornale radio regionale, edizione redatta da Maria Spezia e Paolo Roncoletti. In redazione ha collaborato Daniela Sossi, assistenza tecnica di Andrea Fontanot e Riccardo Ostoic. Ricordiamo che le notizie proseguono sul nostro sito www.rainews.it/tgr/fvg e sui profili social, Twitter e Facebook di TGR FVG. I prossimi appuntamenti sono alle 11.05 minuti circa con l'edizione Flash e alle 12.30 con l'edizione Meridiana. Dopo la sigla ci sarà l'Onda Verde. A tutti voi grazie per averci seguiti e buona mattinata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.